può, si può. Signore, signora, scusatemi se da sol mi presento. Io sono il prologo, poiché in scena ancora le antiche maschere mette l'autore. In parti voi prenderò per dirvi come pria, le lacrime che ne versia son false, degli spasimi e dei nostri martir, non allarmatevi. No, no, l'autore ha cercato di invece pingervi uno sguarcio di egli è per massima, so che l'artista è un uomo, e che per gli uomini scriverei d'ebre, e tal vero ispiro fossi. Andiamo, incominciamo!